Europa 24. Nella giornata finale del vertice sulla sicurezza nucleare all'AIA, il monito del Consiglio europeo, del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. È un momento in cui la pace e la sicurezza internazionali sono di nuovo a rischio e i leader del mondo hanno la responsabilità di mantenere l'ordine internazionale fondato sullo Stato di diritto. Quindi, ha detto ancora Van Rompuy, dobbiamo raddoppiare lo sforzo per costruire un mondo unito e pacifico, in cui le dispute si risolvono attraverso negoziati, non con l'uso della forza. 35 paesi si sono impegnati oggi a rafforzare la sicurezza nucleare pur di evitare il rischio terrorista in questo delicatissimo campo. L'impegno è giunto nel secondo giorno di una conferenza internazionale che si sta svolgendo qui all'AIA. La dichiarazione è stata firmata da tutti i paesi occidentali, ma non dalla Cina e dalla Russia. Il momento è delicatissimo. A 25 anni dalla caduta del muro, le tensioni internazionali sono evidenti sulla scia della grave crisi ucraina. I toni tra la Russia e gli Stati Uniti ricordano quelli della guerra fredda. Negli ultimi anni è stato possibile rafforzare la cooperazione internazionale in campo nucleare grazie a un clima relativamente sereno tra le grandi potenze. Oggi questo clima sta pericolosamente scemando, tanto che potrebbe mettere drammaticamente a repentaglio la gestione in comune delle attività nucleari. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'AIA. Un nuovo bilancio europeo per il rinascimento industriale europeo è possibile. Se ne è parlato questa mattina in un convegno a Milano, l'ha seguito per noi Valeria De Rosa. Valeria. Buongiorno a te Piera e ai nostri ascoltatori. I fondi europei per una rinascita industriale, diciamo subito che non si tratta di nuovi fondi in toto, sono 150 miliardi in tutto, di cui 100 miliardi di fondi regionali, 40 miliardi da Orizzonte 2020, 2,3 miliardi da COSME, che è il programma per le piccole imprese, e 10 miliardi dalla ricapitalizzazione della BEI. Quindi dopo l'ubriacatura degli anni sui mercati finanziari e consapevoli della profonda crisi che ha attraversato e ancora attraversa l'Europa, Bruxelles e gli Stati membri tornano a mettere al centro l'industria. Per l'Italia, come sempre quando si tratta di fondi, una grande opportunità è anche la possibilità di superare degli scogli ormai cronici per noi, ovvero la capacità di utilizzare questi soldi con uno squilibrio davvero grave tra nord e sud, come ha sottolineato il ministro Lanzetta, e la necessità di una politica industriale che però tenga conto delle differenze tra regione e regione e delle esigenze della piccola e della grande impresa. A questo proposito sentiamo il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il governatore della Puglia Nichi Vendola. La desertificazione industriale contro cui noi ci stiamo battendo già da un po' è una conferma diretta e precisa che abbiamo bisogno di più politica industriale. Con la programmazione 2014-2020 della spesa comunitaria sarà consentito il sostegno a una vera politica industriale. In Italia non è sicuro, diciamo, che il nodo sia sciolto. Chiudere i lavori è stato il ministro per le attività produttive Federica Guidi, la quale ha spinto molto soprattutto sulla burocratizzazione e quindi liberare le nostre imprese da questi vincoli che non permettono a delle imprese che sono comunque molto vitali di competere in Europa così come dovrebbero. Grazie, grazie a Valeria De Rosa ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.